Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail, unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, oppure se preferite robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, la sicurezza di ciò che compriamo, secondo me, negli ultimi anni è andata via via scemando, soprattutto nei confronti dell'infanzia. Le attenzioni devono essere molte e non si sa bene come districarsi. I prodotti falsi o i prodotti contraffatti o comunque i prodotti pericolosi sono milioni in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Non voglio dire che daremo un vademecum per l'acquisto sicuro, ma sicuramente, scusate il gioco di parole, del tema ne parliamo. E ne parliamo con chi? Con Stefano Soro, che è capo dell'unità sicurezza, prodotti e servizi alla Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione Europea. In soldoni, è la persona che per l'Unione Europea è a capo di un'unità che ci dovrebbe garantire sulla sicurezza dei prodotti di largo consumo o di largo consumo, meno di massa, che appunto gli italiani e i consumatori europei acquistano giornalmente. Buongiorno Soro. Buongiorno a voi. Allora Soro, io direi proprio di partire dal compito dell'unità che lei presiede. Allora, il compito dell'unità che io presiedo è abbastanza semplice da spiegare. Come probabilmente gli ascoltatori sanno, noi siamo in un'Unione Europea dove non ci sono più frontiere. I prodotti circolano, entrano in Europa in un porto che può essere Genova, come può essere Rotterdam o Amburgo, e circolano in 30 paesi senza controlli di frontiera. Quello che facciamo noi è costruire e coordinare una rete di autorità di sorveglianza in tutti gli Stati membri che scambiano informazioni sui prodotti pericolosi che vengono fermati in giro per l'Europa. Perché facciamo questo? Appunto perché un prodotto entra in un paese, si può ritrovare in tutti gli altri, ed è importante che l'informazione e l'azione sui prodotti che vengono fermati sia completa, rapida e porti ad azioni concrete negli altri paesi in cui questi prodotti si possono trovare. Ecco, fuori onda mi spiegava, e quindi lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, che poi il controllo ovviamente è lasciato ad ogni singolo Stato. Sì, è così. Il controllo, innanzitutto è importante ricordare che la responsabilità per la sicurezza di un prodotto che è messo sul mercato è dell'imprenditore, dell'operatore economico che lo mette sul mercato, e questo a prescindere da dove il prodotto è fabbricato. Se uno importa prodotti dalla Cina o dalla Svizzera o dagli Stati Uniti, non è il produttore cinese, svizzero o statunitense o americano che è responsabile perché il prodotto in Europa sia sicuro, è chi lo mette sul mercato. Per cui prima responsabilità gli operatori economici, e poi ovviamente ci sono autorità vicine al cittadino, non una mega autorità europea lontana dai cittadini, ma in ogni Stato membro e negli Stati federali a livello anche regionale o locale, autorità che hanno il compito di far sì che gli operatori economici assumano le loro responsabilità e di far sì anche di controllare le importazioni, di controllare... Io acquisto solo italiano, le dicevo, un modo per cercare di tutelarmi nei confronti di oggetti che possano essere difettosi o peggio ancora pericolosi per la salute, soprattutto dei più piccoli. E lei mi diceva, bella parola sapere se si acquista italiano. Insomma, non possiamo più essere sicuri di niente, Soro. No, guardi, innanzitutto, appunto, come le dicevo, i prodotti devono essere sicuri indipendentemente dalla loro origine, e la responsabilità è chiaramente di chi li mette sul mercato in Europa. Ci sono alcuni prodotti, la battuta che facevo io prima, difficile, come i giocattoli, che per la stragrande maggioranza vengono da fuori Europa. Oltre i tre quarti dei giocattoli sul mercato europeo sono fatti in Cina, ecco, la stragrande maggioranza in una a Canton, in una provincia cinese. Ecco, allora, noi abbiamo tutti negli occhi le immagini che fanno di tanto in tanto vedere nei telegiornali, poi soprattutto in questo periodo torneranno ad invaderci con queste immagini del pupazzetto che si incendia, dell'altro pupazzetto al quale cade l'occhio, occhio che poi è pericoloso se un bambino di età inferiore ai 3 anni o anche superiore lo ingerisce. Certo. Insomma, tutti questi giocattolini che si disintegrano. Lei ha anche un sito internet, non personale, voglio dire, la Commissione Europea, anche un sito internet in cui c'è questo orsacchiotto spelacchiato con questa dicitura: it's cute, but is it safe? Cioè, è carino, dolciotto, ma è sicuro sto orsacchiotto? Allora, ci parli un po' del sito e anche delle indicazioni che troviamo. Intanto ce lo dica qual è questo sito. Allora, il sito, l'indirizzo più facile è ec.europa.eu/rapex. Su questo sito ogni settimana noi mettiamo un sommario, diciamo, di tutte le notifiche di misure prese per togliere prodotti pericolosi sul mercato, con fotografie, indicazioni del rischio, eccetera, eccetera. È carino, è sicuro. Guardi, secondo me lei ha detto che la sicurezza è andata via scemando nel corso degli anni. Io non ne sarei così sicuro. C'è il fatto che rispetto a quando io, probabilmente anche lei, giocavamo da bambini, gli standard di sicurezza per tutti i prodotti, in particolare giocattoli, elettrodomestici e apparecchi di vario genere che noi abbiamo in casa ogni giorno, è cresciuta moltissimo, gli standard sono cresciuti moltissimo, si è parlato molto, che ne so, della vernice con il piombo. Quando noi eravamo bambini giocavamo allegramente con giocattoli verniciati con i soldatini di piombo, con i soldatini di piombo, avevamo i tubi, le tubature dell'acqua che probabilmente contenevano piombo, avevamo un sacco di piombo nella benzina delle macchine dei nostri genitori, macchine che non avevano né poggiatesta né cintura di sicurezza né airbag, eccetera. No, quello che lei dice è effettivamente corretto, sono cambiati gli standard, le garanzie si sono elevate e quindi è correttissimo la sua riflessione. Allora torniamo sui controlli, le chiedo, lei ha un osservatorio privilegiato, no? Sì. E quindi vede dall'alto tutti i nostri paesi che fanno parte di questa corona europea. Come siamo noi italiani? Siamo furbacchiotti, cerchiamo di agevolare l'importazione di questi giocattoli assolutamente non sicuri, siamo invece molto attenti, c'è qualcuno che è meno attento di noi? Insomma, si parla sempre degli italiani come un popolo di santi, di navigatori, di eroi, di furbi. È proprio così, Soro? Ma guardi, io non starei a fare classifiche. La mia commissaria e il commissario precedente sono venuti in Italia a parlare con i ministri, il ministro dello sviluppo economico che si occupa della sorveglianza del mercato in Italia, e i quali hanno detto candidamente che c'è molto da fare per migliorare la sorveglianza del mercato in Italia. Qualcosa anche importante è stato fatto in periodi recenti, diciamo negli ultimi 2 anni, e questo mi fa piacere dirlo a prescindere dalla colorazione dei governi che si sono succeduti. Fa bene a dirlo, direi, anche perché a noi non interessano assolutamente i colori politici. No, però questo è un tema che, diciamo, è abbastanza bipartisan, come certo. Si dice. Un'altra cosa che io vorrei dire è che, per esempio, l'Italia è abbastanza un modello di ottimo allievo per quanto riguarda la sorveglianza per la sicurezza alimentare, forse a livello europeo, forse dice qualcosa su quali sono le priorità di noi italiani. Però insomma, il discorso è che è importante non solo che per i consumatori italiani che le autorità italiane facciano bene il loro lavoro, ma che lo facciano bene tutte le autorità europee, perché appunto i prodotti circolano e i controlli di frontiera non ci sono più ormai da qualche anno. Ogni catena è forte quanto l'anello più debole, e il nostro sforzo è di fare sì che anche alla luce degli allargamenti successivi dell'Europa che ci sono stati, che tutti remino nella stessa direzione con la stessa forza e che si scambino le informazioni. Bene, allora io la lascerei con una domanda. Molti genitori ci saranno ascoltando in questo momento, volessero comprare un pupazzetto, un orsacchiotto dolce con lo sguardo bello languido, come fanno a sapere se è sicuro? Guardi, il rischio zero non esiste mai, per cui insomma non vendo frottole, il rischio zero non esiste mai. Ci sono alcuni accorgimenti, tipo acquistare da fornitori che si conoscono, di cui ci si fida, non farsi abbagliare da specchietti per le allodole. Se un giocattolo costa 20 euro e qualcun altro ce ne offre uno che ci dice che è esattamente lo stesso per 5, qualcosa che non va da qualche parte c'è sicuramente. Certo, certo. Bisogna usare il cervello, prudenza Attenzioni. E mille attenzioni. Esatto. Allora io ringrazio Stefano Soro che da lassù, dalla Commissione Europea, vigila sulla correttezza degli stati membri in materia di sicurezza dei prodotti. E grazie per il suo intervento. Lo stesso dico di Giorgio Matte in regia e di Laura Fagini in studio. E Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.